A posto? Sguardo vuoto per la strada, tra noi e piazza, in città io cerco pace vuote, ma il banco offre tutto qua la città, è un giardino anche il sabato al mattino, guardo fuori, ma so che non che pago fuori, io non ce la faccio più. Grazie, grazie.